sacco casino. Alma me cresta e qui l'imperatore vi parla da vicino. Ma voglio dire mietta che sta gente, chi ho buone e chi ho malamente. Pensate se buone e tenete la mente, chi ho buone e chi ho malamente. Niente tribunale, niente di universale, il mio è soltanto un giudizio personale. Niente tribunale, niente di universale, il mio è soltanto un giudizio personale. Ma voi gli erice tenete la mente, chi è buone e chi ho malamente. Pensate se buone e tenete la mente, chi è buone e chi ho malamente. C'è sta chi va a camminare con Ferrari e chi tutta giornata si può sangamare. Sono nato, sono cresciuto lì da sto quartiere, a chi ne raggio e chi ne pensiera. C'è sta chi fatica la mattina a sera e chi ha roba, chi spaccia e chi si fa una pera. Ora e ora non c'è una televisione a pensare che non si ama, si non viene un macchino. Tu stai zitto e pensa come un pulo e si fa, ma in un'area lì da sacco non c'è sta. Sono chiuso a camminare, sono chiuso a camminare e ha già visto che in un'area ci stanno. Niente di strano, si passa una mattina e mi metto a venire l'eroina. Quando non si vengo un po' giornale, sono morto sparato quattro criminali. Pensate c'è buona, tenete la mente, chi è un buon e chi è un malamente. Pensate c'è buona, tenete la mente, chi è un buon e chi è un malamente. Niente tribunale, niente di universale, il mio